Si introduce destramento e le teste di cervelli e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiavazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il buono la tempesta, che ne sente la foresta, va fischiando, brontolando, e di fatto l'orcelando, poi la pintra bocca scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione, come un colpo di cannone.